Lettere a Radio 24 con la collaborazione di Luca Cremonese. Martedì, ore 18:30. Domanda: cosa pensa del 60% dei consensi per Berlusconi? Mi permetto, da assiduo ascoltatore della vostra radio, ricca di rubriche interessanti e obiettive, di dissentire dell'analisi politica fatta non so da chi sull'attuale governo Berlusconi. A parte l'arrogante tono di assoluta verità che si stava proponendo agli ascoltatori, non capisco come si possa dire che l'intoccabile premier per legge si sia mosso senza sbagliare nulla. Piano emergenza rifiuti. Tutt'altro che risolto, poi se vogliamo tenere nascosta la verità è un altro conto. Piano immigrazione. Fallito. Lo sbarco di immigrati è raddoppiato, a detta del ministro. Piano sicurezza. Fallito. Vedi Casalvolturno o Milano. In Italia mai successi episodi di razzismo, anche se li vogliamo camuffare con altre menzogne. E così l'ICI, la scuola, la lotta alla prostituzione, la legge sui precari, scandalosa, la proposta capestro per l'Italia. Insomma, quando si parla al microfono di una radio si deve fare attenzione e i giudizi e le opinioni devono essere più equilibrati, evitando di fare monumenti perché, come insegna la storia, spesso e volentieri vengono abbattuti. Vedi Mussolini, Lenin, Saddam. Io sono un democratico, né di destra né di sinistra, solo democratico. E vorrei continuare a poterlo essere, senza dover essere schedato ogni volta che fischia un ministro. Claudio. Egregio dottor Santalmassi, le scrivo per la prima volta, dopo che oggi ho ascoltato un suo parere, un suo grande elogio al governo Berlusconi, in risposta a un'ascoltatrice che le aveva scritto. Le devo confessare che ho sempre pensato, e ancora lo penso, che lei sia molto vicino alla sinistra o al centrosinistra, e quindi contrario alla mia vicinanza al centrodestra. Però questa volta mi ha stupito, e le devo fare i complimenti, perché in poche parole ha spiegato perché il governo Berlusconi gode di un consenso superiore al 60%. Dimostrando un giudizio super partes e molto concreto. A lei il mio plauso per il suo comportamento e per la sua lucidità di giudizio. Penso che d'ora in poi ascolterò le sue risposte in modo diverso rispetto a prima e le confesso che mi fa molto, molto piacere. Un cordiale saluto, Tiziano. Gentile direttore, questa lettera fa seguito alla sua risposta del 23 settembre scorso ad una ascoltatrice che le chiedeva un parere sul gradimento del governo in carica. Con mia sorpresa, e seguo da tempo la sua radio e ne apprezzo il tentativo di essere informativa ed equilibrata, ho ascoltato un inno al governo Berlusconi degno del miglior fede. Non mi aspettavo una simile dichiarazione di amore per un governo capace solo di sparate ad effetto e prese di posizioni inutili. In ordine sparso, cito, senza entrare nei dettagli ma rimettendomi alla sua onestà intellettuale, perché non credo che possa veramente pensare ciò che ha detto in radio, cito in ordine sparso. Scuola, Alitalia, migranti, tagli a ricerca e sviluppo, il lodo Alfano e le leggine per il premier, militari nelle strade, gaff continui all'estero. Non nego le poche cose buone, perché neanche a voler fare apposta si riesce a sbagliare tutto, come la stretta sugli statali, la blindatura della finanziaria. Ma mi sembra veramente troppo poco per innalzare monumenti a chi sta devastando questo paese e l'etica dei suoi cittadini. Ma questo è un giudizio morale e può non essere condiviso. Se poi si voleva salire sul carro del vincitore, probabilmente ci si è riusciti. Ma che tristezza. Un altro ottimo cervello portato all'ammasso. Con i migliori saluti, Claudio. PS. Continuerò comunque a seguire la sua radio. Almeno finché la nuova linea editoriale non sia scesa per li rami ad allineare Barisoni, Paolini, Cruciani e gli altri. Caro Santalmassi, apertis verbis, direbbero i latini. Ho ascoltato a Radio 24 la tua risposta ad un'ascoltatrice che si chiedeva il perché dell'attuale popolarità di Berlusconi. L'altro giorno tu elencavi le avverse circostanze che hanno caratterizzato vari periodi in cui egli ricopriva la carica di premier. Ma oggi sei stato deciso, tranciante, privo di retorica giornalistica e hai dimostrato di possedere una rara personalità, nonché un grande coraggio. Saluti cari. Angelo. Ringrazio tutti gli ascoltatori. Ai due Claudio dico che secondo me sbagliano, ma voglio essere buono e dico che forse sbagliano perché hanno sentito solo la lettera di ieri. Hanno saltato, forse, o si sono dimenticate quelle sull'abolizione dell'ICI. Mi chiedevano un parere anche su questo, o il parere che ho espresso sulla vicenda Alitalia. Vedete, la risposta di ieri parte da un dato di fatto che non credo sia controvertibile. Avete presente i risultati elettorali del 13 aprile 2008? Secondo me assai più devastanti per la sinistra di quelli del 18 aprile del 48. Bene, quel gradimento espresso allora è accresciuto ancora. C'è un consenso in salita, in aumento per le capacità che ha il centrodestra e Berlusconi in particolare di intercettare i desideri dei cittadini. Ricordo che il centrosinistra litigò per 2 anni e dopo l'assassinio della povera Reggiani a Tor di Quinto a Roma non fu capace nemmeno di varare il decreto sicurezza chiesto da chi? Da Veltroni. E che è stato invece riesumato da Maroni. Ma questo è solo un esempio che prescinde dal fatto che delitti di extracomunitari c'erano, ci sono e purtroppo ci saranno ancora. Ringrazio anche Tiziano e Angelo, ma a tutti e quattro, a tutti gli ascoltatori, dico, per cortesia, evitatevi l'inutile fatica di arruolarmi da una parte o dall'altra. 2 anni fa Berlusconi mi indicò per nome e cognome come nemico del governo di centrodestra perché da questa radio li attaccavo tutte le mattine. 1 anno fa Prodi pose fine alla mensile intervista a Radio 24, una poltrona per due, ricordate? Che fu un tentativo di dare una comunicazione all'americana tra paese e istituzioni, perché era stizzito da un furbetto del quartierino che riguardava anche lui. Intervista, tra l'altro, questa che ho proposto anche a Silvio Berlusconi dopo il suo ritorno a Palazzo Chigi e alla quale proposta non ha mai risposto. Lo dico una volta per tutte, spero l'ultima, in questo mestiere ho fatto sempre una parte sola. Ho passato una vita a fare il cane da guardia al potere, qualunque esso fosse, di centrosinistra, di centro o di centrodestra. Grazie a tutti. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.